Scrivo questa lettera ad una peste bianca e nera, con occhi gialli con riflessi verdi. Da quando c'è lui la casa è più piena, le risa sono aumentate e purtroppo anche i graffi. Ma non dimenticherò quel pomeriggio di fine settembre quando quei tre gatti, Alex e altre due gattine, mi hanno guardato con occhi spaventati. E quando quel muso piccolo come un pugno di bambino mi ha guardato la prima volta, la vita mi ha sorriso e non ci credevo. Sembrava un sogno, ma era realtà. La peste oggi, 27 marzo 2007, ha 1 anno e 7 mesi, ma la sua vita è appena incominciata perché, si sa, i gatti hanno 9 vite. Saluto il mio gatto Alex. Naomi.